Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar. La morte è penosa, ma anche la vita può esserlo. Ogni cosa aveva un volto deforme. La fondazione di Antinopoli non era che un gioco derisorio, una nuova città, un asilo offerto alle frodi dei mercanti, alle crudeli esazioni dei funzionari, alla prostituzione, al disordine, ai vili che piangono i loro morti prima di dimenticarli. L'apoteosi era vana. Quegli onori pubblici non sarebbero serviti ad altro che a fare del fanciullo un pretesto a viltà o a ironie, un oggetto postimo di cupidigia o di scandalo, una di quelle leggende un po' marce che ingombrano i recessi della storia. Il mio lutto non era che una forma di incontinenza, una dissolutezza grossolana. Restavo colui che profitta, colui che gode, colui che prova tutto. Il mio prediletto mi consegnava la sua morte. Un uomo deluso piangeva su se stesso. Le idee stridevano, le parole giravano a vuoto, le voci avevano il ronzio delle cavallette o delle mosche su un mucchio di rifiuti. Le nostre barche, dalle vele turgide come petti di colombe, trasportavano intrighi e menzogne. La stupidità faceva mostra di sé sulle fronti umane. Dappertutto trapelava la morte sotto il suo aspetto di decrepitezza o di putrefazione. Il frutto bacato, l'orlo della tenda impercettibilmente liso, una carogna sulla sponda, i foruncoli di un viso, il segno delle vergate sulla schiena dei marinai. Le mie mani mi sembravano sempre un po' sporche. All'ora del bagno, quando tendevo agli schiavi le gambe da depilare, guardavo con disgusto questo corpo solido, questa macchina quasi indistruttibile, che digeriva, camminava, riusciva a dormire e un giorno o l'altro sarebbe tornata ai gesti dell'amore. Non tolleravo più che la presenza dei pochi servi che si ricordavano del morto. A modo loro, anch'essi lo avevano amato. Il mio lutto trovava un eco nel dolore un po' vano d'un massaggiatore o del vecchio negro addetto alle lampade, ma il dispiacere non gli impediva di ridere sommessamente tra loro mentre prendevano il fresco sulla riva. Una mattina, mentre ero appoggiato al parapetto, scorsi nel quadrato delle cucine uno schiavo che ripuliva uno di quei pollastri che l'Egitto fa pullulare a migliaia nei forni poco puliti. Lo schiavo a un certo punto prese a piene mani il mucchio vischioso dell'interiora e lo gettò in acqua. Feci appena a tempo a voltar la testa per vomitare. Allo scalo di file, durante una festa offertaci dal governatore, un bimbo di 3 anni, nero come il bronzo, figlio d'un numida, si infilò nelle gallerie del primo piano per guardare le danze. Cadde di sotto. Fecero del loro meglio per nascondermi l'incidente. Il padre tratteneva i singhiozzi per non disturbare gli ospiti del suo padrone. Lo si fece uscire con il cadavere dalla porta di cucina. Malgrado tutto, intravidi quelle spalle che si alzavano e si abbassavano convulse, come sotto una sferza. Avevo la sensazione di assumere su di me quel dolore paterno, come quello di Ercole, quello di Alessandro, quello di Platone, che piangevano i loro amici scomparsi. Feci portare qualche moneta d'oro a quel misero. Che cosa si può fare di più? 2 giorni dopo lo rividi. Si spidocchiava beatamente sdraiato sulla soglia. affluirono i messaggi di cordoglio. Pancrate mi inviò il suo poema, finalmente terminato. Non era che un mediocre centone di esametri omerici, ma per me il nome che vi tornava quasi ad ogni riga me lo rendeva più commovente di mille capolavori. Noumenio mi fece recapitare una consolazione in piena regola. Trascorsi una notte a leggerla. Non vi mancava un solo luogo comune. Quelle esili barriere elevate dall'uomo contro la morte si sviluppavano su due linee. La prima consisteva nel presentarcela come un male inevitabile, nel ricordarci che né la bellezza, né la giovinezza, né l'amore sfuggono alla putrefazione. Nel provarci infine che la vita e la sua infinita teoria di sciagure sono ancor più orrende che la morte, e val meglio perire che invecchiare. Verità propinateci per indurci alla rassegnazione, ma esse giustificano soprattutto la disperazione. La seconda linea di argomenti è in contraddizione con la prima, ma i nostri filosofi non vanno molto per il sottile. Non si tratta più di rassegnarsi alla morte, ma di negarla. Solo l'anima conta. E veniva posta con arroganza, come un dato di fatto, l'immortalità di questa entità vaga che non abbiamo mai vista operare senza il suo corpo, prima ancora di darsi la pena di provarcene l'esistenza. Non ne ero affatto certo. Svaniti il sorriso, lo sguardo, la voce, le realtà imponderabili, perché non l'anima? Gli imbalsamatori consegnarono la loro opera. La sottile bara di cedro fu deposta dentro un sepolcro di porfido, nella sala più segreta del tempio. Mi avvicinai timidamente al morto. Sembrava mascherato. La rigida acconciatura egizia gli copriva i capelli. Le gambe, fasciate dalle bende, non erano più che un lungo involucro bianco, ma il suo profilo di falco giovinetto non era mutato. Le ciglia gettavano sulle gote dipinte un'ombra che riconoscevo. Prima di portare a termine la fasciatura delle mani, tennero a farmi ammirare le unghie d'oro. Ebbero inizio le litanie. Per bocca dei sacerdoti, il morto dichiarava d'essere stato sempre veritiero, sempre casto, sempre caritatevole e giusto, e vantava virtù che, se le avesse praticate davvero, lo avrebbero messo per sempre al bando dei vivi. L'odore disfatto dell'incenso riempiva la sala. Al di là d'una voluta cercavo di dare a me stesso l'illusione del suo sorriso e il bel viso immobile pareva tremare. Ho assistito a riti magici mediante i quali i sacerdoti costringono l'anima del defunto a incarnare una particella di sé nelle statue che ne conserveranno la memoria e ad altre ingiunzioni ancor più singolari. Quando tutto fu finito, si applicò la maschera d'oro modellata sulla cera funebre. Aderiva strettamente alle sue fattezze. Ben presto quella bella superficie incorruttibile avrebbe riassorbito in sé ogni possibilità di luce e di calore e sarebbe giaciuta per sempre in quella cassa ermeticamente chiusa, simbolo inerte di immortalità. Fu posto un fascio d'acace sul petto. Una dozzina d'uomini sollevarono il pesante coperchio, ma esitavo ancora sulla località del sepolcro. Ricordavo che, mentre avevo ordinato dappertutto feste e apoteosi, giochi funebri, monete di nuovo conio, statue sulle pubbliche piazze, avevo fatto un'eccezione per Roma. Avevo temuto di aggravare ulteriormente l'animosità che circonda quasi tutti i favoriti stranieri. Mi dissi che io non sarei stato sempre a Roma per proteggere quella sepoltura. Anche il monumento previsto alle porte di Antinopoli sembrava troppo esposto e poco sicuro. Seguii il consiglio dei sacerdoti. Essi mi indicarono, sul fianco di una montagna della catena arabica, a 3 leghe circa dalla città, una di quelle caverne che un tempo i re d'Egitto destinavano a servir loro da sepolcri. Un carro tirato da buoi trascinò il sarcofago su quella salita. Con le corde lo si fece scivolare giù per quei cunicoli da miniera. Lo si addossò a una parete di roccia. Il fanciullo di Claudiopoli scendeva nella tomba come un faraone, come un Tolomeo. Lo lasciammo solo. entrava in quella durata senza aria, senza luce, senza stagioni e senza fine, al cui confronto ogni vita appare breve. Aveva raggiunto quella stabilità, quella calma, forse. I secoli ancora celati nel seno opaco del tempo sarebbero passati a migliaia su quella tomba senza rendergli l'esistenza, è vero, ma anche senza contribuire a quella morte, senza poter impedire che egli sia esistito. Ermogene mi afferrò per il braccio per aiutarmi a risalire all'aperto. Fu quasi una gioia ritrovarsi alla superficie, rivedere il freddo cielo turchino tra due costoni di roccia fulva. Il resto del viaggio fu breve. Ad Alessandria l'imperatrice si imbarcò per Roma. Tornai in Grecia via terra. Fu un viaggio lungo. Avevo ragione di credere che senza alcun dubbio sarebbe stato il mio ultimo viaggio ufficiale in Oriente. E a maggior ragione ci tenevo a ispezionare tutto di persona. Antiochia, dove feci una sosta di poche settimane, m'apparve sotto un aspetto nuovo. Ero meno sensibile che in altri tempi all'attrazione dei teatri, alle feste, ai piaceri dei giardini di Dafne, alla folla turbinante che mi sfiorava. Notai di più l'incostanza perenne di quel popolo maldicente e motteggiatore che mi ricordava quello d'Alessandria, la vacuità dei pretesi esercizi intellettuali, lo sfoggio volgare del lusso da parte dei ricchi. Quasi nessuno di quei notabili afferrava l'insieme dei miei programmi di opere e di riforme in Asia. Si contentavano di profittarne a vantaggio della città e, soprattutto, proprio. Per un momento ebbi l'idea di incrementare l'importanza di Smirne o di Pergamo a danno dell'arrogante capitale siriaca, ma i vizi di Antiochia sono inseparabili da qualsiasi metropoli. Non v'è grande città che possa andarne esente. Il disgusto per la vita di città mi indusse a volgermi ancor più, se possibile, alle riforme agrarie, detti l'ultimo tocco alla lunga e complessa riorganizzazione dei possedimenti imperiali in Asia Minore. I contadini ne furono avvantaggiati e anche lo Stato. In Tracia volli visitare Andrinopoli, dove erano affluiti i veterani delle campagne daciche e sarmate, attirati da elargizioni di terre e da sgravi d'imposte. Ad Antinopoli risolsi di adottare lo stesso programma. Da lunga data avevo accordato in ogni luogo esenzioni analoghe a medici e a insegnanti, sperando di secondare la conservazione e lo sviluppo di una classe media seria e dotta. Ne conosco bene i limiti, ma uno Stato dura soltanto per opera sua. Atene restava la mia sosta prediletta. Mi stupiva ogni volta che il suo incanto fosse così poco legato alle memorie mie personali o della storia. Quella città sembrava nuova ogni mattina. Durante quel periodo lessi molto. Avevo spinto Flegone a comporre sotto il titolo di Olimpiadi una serie di cronache destinate a continuare le Elleniche di Senofonte e a terminare con il mio regno. Un piano audace, in quanto faceva dell'immensa storia di Roma nient'altro che un seguito di quella greca. Flegone scrive in uno stile sgradevole, arido, ma dar conto degli eventi, stabilirli, sarebbe stato già qualcosa. Questo progetto mi ispirò il desiderio di rileggere gli storici antichi. La loro opera, commentata dalla mia esperienza, mi riempì di foschi pensieri. L'energia, la buona volontà di ogni uomo di governo sembravano poca cosa di fronte agli svolgimenti fortuiti e fatali al tempo stesso, a quel torrente di eventi troppo confusi per poterli prevedere, dirigere o giudicare. Mi occupai anche dei poeti. Amavo evocare le voci piene pure di un lontano passato. Mi fu caro Teognide, l'aristocratico, l'esule, l'osservatore scevro di illusioni ed indulgenza per le cose umane, sempre pronto a denunciare gli errori e le colpe che chiamiamo i nostri mali. Quell'uomo tanto lucido aveva assaporato le gioie dolorose dell'amore e, ad onta di sospetti, gelosie e rancori reciproci, il suo legame con Cirno era durato fino alla vecchiezza dell'uno e all'età matura dell'altro. L'immortalità che aveva promesso al giovinetto di Megara era più che una vana parola, dato che il suo ricordo giungeva sino a me, dopo più di 6 secoli. Ma tra gli antichi poeti amai soprattutto Antimaco. Ne apprezzavo lo stile denso e involuto, le frasi ampie e tuttavia concentrate al massimo. Grandi coppe di bronzo colme di un vino denso. Preferivo il suo racconto del periplo di Giasone alle argonautiche più movimentate di Apollonio. Antimaco aveva compreso meglio il mistero degli orizzonti e dei viaggi, l'ombra che l'uomo così effimero proietta su paesaggi eterni. Aveva pianto appassionatamente sua moglie Lidia, aveva dato il suo nome a un lungo poema nel quale figuravano tutte le leggende di lutto e di dolore, e quella Lidia, che forse da viva mi sarebbe passata inosservata, diventava un'immagine familiare per me, più cara di tante figure femminili della mia stessa esistenza. Quelle poesie, tuttavia quasi obliate, a poco mi restituivano fiducia nell'immortalità. Rilessi le mie opere, versi d'amore, componimenti di circostanza, lode in memoria di Plotina. Chissà che un giorno non possa venire a qualcuno la fantasia di leggerli. Esitai dinanzi a un gruppo di versi osceni, ma finii per includerveli. Da noi le persone più serie ne scrivono, per diletto. avrei preferito che i miei fossero diversi, l'immagine esatta d'una verità nuda. Ma in questo argomento, come in tutto il resto, siamo avvinti nei lacci dei luoghi comuni. Cominciavo a rendermi conto che non basta l'audacia di spirito per infrangerli, che il poeta non trionfa della maniera e non impone il proprio pensiero alle parole, se non grazie a sforzi intensi e assidui, quanto la mia opera d'imperatore. Da parte mia non potevo pretendere altro che un successo da dilettante. Sarà già molto se mi sopravviveranno due o tre versi da tutto quel guazzabuglio. Tuttavia, in quell'epoca, abbozzai un'opera un po' ambiziosa, metà in versi, metà in prosa, nella quale avrei voluto mettere cose serie e ironiche al tempo stesso, i fatti singolari osservati durante la mia vita, le meditazioni, i sogni, il tutto tenuto insieme da un filo conduttore sottilissimo, una specie di satiricon, ma più aspro. Vi avrei esposto una filosofia che era ormai divenuta la mia, l'idea eraclitea del mutamento e del ritorno, ma deposi quel progetto troppo impegnativo. Quell'anno ebbi con la sacerdotessa che un tempo m'aveva iniziato a Eleusi, il suo nome deve restare segreto, parecchi colloqui nel corso dei quali furono stabilite minutamente le modalità del culto di Antinoo. Gli augusti simboli di Eleusi continuavano a distillare una virtù salutare per me. Può darsi che il mondo non abbia alcun senso, ma se ne ha uno, a Eleusi esso si esprime in forma più saggia e più nobile che altrove. Sotto l'influenza di quella donna iniziai le ripartizioni amministrative di Antinopoli, i rioni, le strade, i blocchi urbani, un sistema del mondo divino insieme a un'immagine trasfigurata della mia vita. Tutto vi entrava, Estia e Bacco, gli dèi del focolare e quelli dell'orgia, le divinità celesti e quelle d'oltretomba. Vi posi i miei avi imperiali, Traiano, Nerva, divenuti parte integrante di quel sistema di simboli. Anche Plotina v'era compresa. La buona Matidia vi si vedeva assimilata a Demetra. E mia moglie, con la quale in quel periodo avevo rapporti abbastanza cordiali, figurava anch'essa in quel corteo di persone divine. Qualche mese più tardi diedi il nome di mia sorella Paolina a uno dei quartieri di Antinopoli. Con lei, moglie di Serviano, avevo rotto ogni rapporto, ma dopo morta Paolina ritrovava in quella città della memoria il suo posto unico di sorella. Quel luogo triste diventava la sede ideale delle riunioni e dei ricordi, i campi elisi d'una vita, il luogo dove le nostre contraddizioni si risolvono, dove tutto al suo posto è egualmente sacro. Rivedevo nel pensiero il palmo di quella mano, levigato dalla morte, quale l'avevo contemplato l'ultima volta il mattino dell'imbalsamazione. Le linee che un tempo mi avevano preoccupato non c'erano più. Era avvenuto di essa come delle piccole tavole di cera da cui si cancella un ordine eseguito. Ma queste alte affermazioni ci illuminano senza riscaldarci, come il chiarore delle stelle, e la notte attorno è ancora più buia. Se in qualche luogo il sacrificio di Antinoo era stato pesato in mio favore su una bilancia divina, i risultati di quell'atroce dono di sé non si manifestavano ancora. Quei benefici non erano quelli della vita e neppure quelli dell'immortalità. Osavo appena tentare di darvi un nome. A volte, in rari intervalli, un tenue barlume palpitava, gettava una pallida luce sull'orizzonte del mio cielo, ma non abbelliva né il mondo né me stesso. Continuavo a sentirmi più deteriorato che salvato. Thank you.